che noi abbiamo nei nostri reni per non farli precipitare e per far sì che non si formano calcoli. Quindi, dottor Battaglia, chi anche ha avuto già dei calcoli renali vale questo consiglio? Certo, perché si è visto in quello che dicevo in alcuni lavori che una dieta ricca di limone, quindi ricca di citrati, fa sì che si sciolgono questi calcoli. La biochimica se ne è impadronito, ci sono tanti composti che si trovano nei banchi della farmacia con composti di citrato, che è il componente del limone, che vengono dati per sciogliere i calcoli, per prevenirne la formazione. Dottor Battaglia, ci scriva allora la ricetta. Allora, la ricetta è quella di mangiare poca carne. Sì. I paesi occidentali sono ricchi di diete carne. La carne diminuisce la formazione di citrati nelle urine e quindi ci porta alla formazione di calcoli, perché manca il fattore di protezione che sono i citrati. E soprattutto questa dieta carnea fa sì che si sciolgano il calcio dalle nostre ossa e quindi le urine sono ricche di calcio. Bere limone significa togliere l'acidità nel sangue per la nostra dieta ricca di carne e soprattutto reintegrare quel protettore naturale che sono i citrati, che fanno sì che non precipitano e quindi non si formano i calcoli e i calcoli si sciolgono. Una spremuta di un limone diluito, mezzo limone? Una spremuta di un limone diluito al giorno toglie il calcolo di torno. Toglie il calcolo di torno, ma non solo, sembra che si abbiano anche potere sulle cellule neoplastiche, perché il limonoide, che è uno dei composti del limone, blocca l'apoptosi, che sono l'autodistruzione delle nostre cellule. Dottor Battaglia, io la ringrazio per essere stato con noi, i suoi consigli sicuramente saranno preziosi a chi teme la calcolosi renale o chi ha già avuto una colica renale, sono davvero dolorose. Io l'aspetto presto, le auguro una buona giornata, al profumo di limone. Buona giornata a voi e grazie per l'intervento. Grazie, buona giornata. Buona giornata. La pennichella classica ha un suo cerimoniale. Bisogna stare le regole. Chi dorme non piglia pesci, ma chi si schiaccia un pisolino ricorda meglio. Questo è in breve quello che emerge dalle ricerche più recenti sulla pennichella pomeridiana e che, sono certa, renderà felici tutti coloro che amano o amerebbero farsi un pisolino dopo pranzo, ma che si sentono un po' in colpa. Vengono spesso additati, accusati di perdere tempo, di essere pigri, insomma non al passo con questa società che invece ci vuole svegli e pronti e sempre attivi. Ma oggi allora ho chiesto ad un grande esperto, non di pisolino naturalmente, ma di cervello, di farci capire qualcosa di più. E in linea con noi è tornato a trovarci il professor Carlo Caltagirone, professore di neurologia all'Università di Roma Tor Vergata e direttore scientifico della Fondazione Santa Lucia di Roma. Professore, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a lei. Io bene, grazie, ma bene. Scusi, prima di parlare di sonno, memoria, cervelli e pisolini, lei da che parte sta? Il pisolino lo fa, lo farebbe oppure non ne sente il bisogno? Guardi, lo farei, naturalmente mi capita molto raramente di riuscire nel mio intento, insomma, di farlo il pisolino, però effettivamente sembra che sia molto utile, insomma, e questo conferma tante cose che empiricamente si sapevano. E di fatto quello che succede è che un pisolino anche breve, fra 10 e 15 minuti, è in grado di migliorare le prestazioni di memoria e di apprendimento di, come in questo studio americano, nordamericano che è stato appena fatto, di studenti i quali dovevano imparare delle parole mai sentite, delle parole cinesi, e quelli che avevano avuto la possibilità di fare un pisolino anche così breve avevano delle prestazioni in termini di memoria certamente migliori, quasi del doppio, di coloro che invece non avevano avuto modo di consolidare in definitiva questa informazione che avevano acquisito con un po' di sonno. Quindi dormendo si fissano dei dati, dei concetti, o invece dormendo si prepara il cervello a memorizzare meglio? Guardi, quello che succede è con molta verosimiglianza, perché le informazioni ce ne sono alcune note, altre invece più meno note, che di cui adesso parlerò. Quello che succede è che la memoria è organizzata con dei sistemi, come lei o come ognuno di noi anche intuitivamente capisce, sono dei sistemi di memoria a breve termine e dei sistemi a lungo termine. Il sonnellino, il pisolino, riesce a consolidare nel sistema di memoria a lungo termine quello che è contenuto soltanto nel sistema breve, e questo è molto più efficiente, questo consolidamento, di quanto non accada senza il pisolino. Finora si pensava che tutto questo avvenisse nel sonno REM, e per cui era necessario, dato che il sonno REM non arriva rapidamente di solito dopo l'addormentamento, qualche ora. Invece si è visto che sono le fasi di sonno lento, quello cioè con, che si caratterizza con delle onde elettroencefalografiche lente, quello che è la fase in cui avvengono con maggiore efficienza i fenomeni di consolidamento. Magnifico, professor Caltagirone, io dopo la trasmissione un pisolino lo faccio, mi porto avanti, non si sa mai. Qualcosa debba imparare però, impara tante tutti i giorni. Ma io devo impararne sempre, quindi un pisolino mi fa bene, anche breve, magari due, che così mi porto avanti. Professore, io la ringrazio davvero per essere stato con noi, le auguro una buona giornata, e se oggi pomeriggio le venisse da fare un pisolino, ci pensi. Lo farò volentieri, grazie. Grazie, buona giornata. E per oggi è tutto, un saluto e buon pomeriggio da Nicoletta Carbone.